3,31 per questo valore, che è 0,48, diciamo così, ottengo 1,58, se lo sommo a 6,4 ho grosso modo, ho arrotondato, l'8 che è il valore di partenza. Cioè in questo modo voi avete trasformato queste due variabili in variabili che si distribuiscono, i casi si distribuiscono in termini di scarti positivi, se più alti, o negativi, se più bassi, rispetto al valore della media, e diventano tramite sintetizzabili utilizzando un criterio interno di distribuzione, perché li avete trasformati in deviazioni esatte. Come vorrei far vedere, con software di questo tipo basta chiedere delle statistiche descrittive e poi di salvare i valori come variabili standardizzate, e quindi la trasformazione non va fatta manualmente in un caso alla volta, ma il software vi consente in qualche modo di farlo rapidamente. Ok, visto questo, non ho capito. No, adesso io finalmente ho capito. Ecco, ha capito. Lui ha capito, io invece no. Allora, guarda. Cioè, sono l'unico, però. Allora, lei ha caricato un software specifico lì. Sì, ma si può fare anche con Excel. Okay. Io faccio con questo perché sono più comodo. Allora, avete una distribuzione di casi, poniamo che siano, 10 casi di prima, con delle risposte all'interno di una scala 1-10, d'accordo? Ok, allora avete 1, 4, 5, 6, 10, 10, 8 e 10, ok? Calcoliamo la media di questa grandezza. Sì. La varianza con la formula che abbiamo applicato prima, e poi anche la deviazione standard. Ecco, qui adesso la varianza non c'è, ma comunque la deviazione standard è la radice quadrata della varianza, quindi è la formula che si è scritta, mettete di sopra la radice quadrata e quella della deviazione standard. Ok? Allora, la varianza non ce l'ho scritta nella tabellina. No, questa qua è la pubblicata. No, qua non c'è adesso la varianza, però noi serve la deviazione standard, va bene? Che è la radice quadrata della varianza. Allora, in che cosa consiste questo procedimento? Consiste nel trasformare ciascuno di questi valori in deviazioni standard rispetto alla media, ok? Quindi prendiamo uno che è il valore iniziale. A 1 sottraiamo la media per vedere a che distanza sta 1 dalla media, quindi 1, quanto è uguale la media di questa distribuzione? 5,8 meno 4,8. Dividiamo questa, che è la differenza tra 1 e 5,8, per le deviazioni standard, il valore della deviazione standard, che è 3,58, arrotondando, d'accordo? Diviso 3,58. 1, i casi che valgono 1 si trovano a meno 1,34 deviazioni standard dalla media. Sì. Ha capito? Noi prendiamo qua la differenza. Moltiplichi la media per la deviazione standard. Cosa moltiplicato? No. Moltiplico la differenza tra il valore registrato e il valore medio, la differenza tra 1 e la deviazione standard e la media, quindi 1 meno 5,8, meno quindi quel delta lì, quell'intervallo è negativo, perché è solo 1. Però se io mettessi 6 meno 5,8, allora per 1 abbiamo 1,34, okay, grosso modo. Per 6, che si trova al di là della media, avremo chiaramente un valore positivo. Se ci fosse un caso che che valesse 5,8, sarebbe a quanta deviazioni standard della media zero. Zero. Zero, starebbe esattamente sulla media, ok? Quindi se fosse 6, avremmo 6 meno 5,8 diviso 3,58, cioè 0,06. Che è grosso modo il modo in cui si trasferisce, si trasforma 6 all'interno di questa distribuzione. Quindi adesso le ho automaticamente salvati tutti. Vedete, 1 è meno 1,339, cioè 34, come abbiamo arrotondato. 6 è 0,05, che è quello 0,55, cioè 0,06, che è quello che ho trovato prima. In questo modo, perché questa strategia è interessante? Perché voi avrete valori elevati per i casi che si discostano molto dalla media. E se un 4 in una distribuzione 1,10 si discosta molto dalla media, perché la media è 2, con questa strategia voi tenete conto del suo scostamento rilevante rispetto alla media, d'accordo? È un modo diverso per, diciamo così, sintetizzare le grandezze. Naturalmente è molto utile se le grandezze sono calcolate su scale diverse, perché le esprimete tutte in termini di dimensioni. Sì, fondamentalmente io potrei avere una linea che è la mia media e avrei dei valori che sono sopra, quelli sono sopra. Esatto, i valori che sono sulla media valgono 0, i valori che sono sulla media valgono 0. Okay. Quindi personalmente è stato questo il concetto. Esatto, esattamente questo. Però siccome se lei trasforma tutte le variabili metriche in questo modo, a prescindere dalla scala, le esprime tutte in termini di deviazione standard, usa per tutte la stessa unità di misura, appunto la deviazione standard, che consente di rendere sintetizzabili queste grandezze. Comunque, basso al apro un pochino qui, cosa dite? Apro qua. Si è aperta dentro fuori. Comunque, naturalmente, questo è un approfondimento che ho fatto, perché diciamo che me l'avete un po' chiesto voi, però tutto bene? Ah, io no, mi sono messo male, però. Vuole che apra anche con la finestra? No, ho messo il fiocco adesso, apposta. Ah, ok. Per i dolori. Allora, naturalmente quello che stiamo dicendo, quello che ho detto adesso, è un approfondimento che come avete chiesto voi, però nessuno vi chiederà. Intanto fai fatica a vedere, perché ci arrivi, dopo dici aspetta un attimo perché mi sono persa di più e meno sopra sotto. E allora dici, ma perché? No, ma adesso è chiaro, non è che bisogna essere pratici di come si calcola, però... Però se capisci la logica riesci anche a interpretare il numero, se no... Esatto. Beh, avete capito? Sì. Sì, è tutto chiaro? Sì. Comunque, se può essere tranquillizzante per voi, nessuno vi chiederà mai di discutere la varianza durante l'esame di riorganizzazione delle strutture comunitarie, a meno che voi non la portiate come argomento a piacere. Lui sì, io l'ho visto anche adesso. No. Chi è che ha avanzato? Lui, no, lui, sa. Lui. Sì, qua si supera. No, grazie. Nel senso che c'è l'intenzione di massacrarci. Ma sta scherzando? No, no, guardi, io sto cercando. Adesso al di là dell'esame, che sarà una discussione generale dei temi che abbiamo affrontato durante le lezioni e che sono affrontati nei libri. Però se fra 2 anni vi doveste trovare, anche senza fare network analysis, nella necessità di avere di fronte un database, vi dico, un Excel con 500 soggetti e tante variabili metriche di fronte, e vi dovessero chiedere fatemi una sintesi qua per piacere, possono capitare queste cose all'atto pratico, per chi organizza i servizi e sa lavorare un po' con i computer, d'accordo? E mi pare che sia il caso di tutti quelli che ho di fronte in questo momento. In questo modo voi vedete che in 2 minuti, avendo corretto le formule eccetera, in 2 minuti voi potete calcolare, mettendo una spunta lì, la versione standardizzata della variabile e fare poi una media dei valori che trovate lì, e quello è sicuramente un dato sintetico affidabile. Dopodiché, se il vostro interlocutore non sa che cos'è una deviazione standard, una variabile standardizzata, glielo spiegate in un attimo. Però è quello che vorrei cercare di fare, e darvi proprio, per quello che io posso, per quello che io so, che naturalmente è limitato, delle competenze tecniche, pratiche, per fare delle cose semplici durante le ricerche. Bene, basta, soltanto questo. Dopodiché nessuno ha intenzione di massacrare. No, ci mancherebbe, ma non lo so, lo so che lo dicevo così, però. Sono andata io a tirare fuori gli appunti di statistica che avevo fatto all'università in statistica sociale, perché non mi ricordavo più una serie di cose. Sono andata a per questo quella, corso qua? No, un'altra situazione. Quella è, voglio dire, la direzione standard o un'altra cosa, così si calcola. Sì, appunto, sì, sì, però certo. Se poi non te la ricordi, devi andare a riprendere. In questo caso, più che diciamo tecnicamente sapere come si calcola, eccetera, che naturalmente bisogna saperlo fare, perché sennò non si capisce neanche il senso della misura. E quello che ho voluto provare a dirvi è che usare la deviazione standard permette di risolvere un problema di sintesi quando abbiamo delle distribuzioni molto diseguali. Era quello che io dicevo prima, sì, lo confrontiamo le ah, certo, sì. Per sì, quello che invece sì, quello lì permette di. Permette proprio di considerare. La stessa scala. Facendo emergere le eccellenze, anche se da una parte invece che me le abbiamo trovato delle pere cotte, perché sono gente che si odia, non ha eccellenze, però se c'è un'eccellenza la possiamo fare in qualche modo emergere. Va bene, qui voglio soltanto sottolineare questo aspetto. Se si è cambiato un po' l'aria, io chiuderei, perché mi trovo proprio e non vorrei restarci secco. No, perché arriva Aureliano e non è caro. Arriva Aureliano. Arriva direttamente. Poi devi scrivere un altro libro, perché il primo l'ha dedicato ai due bambini, ma adesso c'è anche questo. Eh no, il primo l'ho dedicato a mia moglie. Ah, il secondo, il quindi ai figli, adesso ne devo fare, io li faccio apposta per quello i figli, sa, così mi danno una sprint per scrivervi. Ma quello che noi dobbiamo portare è dedicato ai figli. Di quelli che ho scritto io ai figli. Questo di Chiesi credo che sia dedicato a sua madre, invece. Esatto, a mia madre. A mia suocera. Allora, abbiamo invece quello che volevo farvi osservare è il modo in cui si calcola la densità in un grafo pesato, che è diverso rispetto al modo che abbiamo invece visto per i grafi diretti e i grafi semplici. Cioè, sostanzialmente, occorre tenere conto del valore delle linee, cioè il peso di ciascuna linea all'interno di un legame. Se una linea non c'è, vuol dire come se valesse zero per noi, naturalmente, e dividere, e sostanzialmente il calcolo della densità si fa sommando tutti i pesi che troviamo all'interno del nostro grafo, i pesi che uniscono tutti i legami. Questo è il caso di un grafo diretto, di un grafo pesato ma non diretto, e dividere questa grandezza, questa sommatoria, per g meno 1 diviso 2. Cioè, che cos'è g per g meno 1 diviso 2? Questa è una domanda che vi faccio appena vi sedete durante l'esame, eh? Ve lo dico già adesso. G per g meno 1 diviso 2, che cos'è? Aspetta, la cosa bella è che c'è qualcuno che adesso mi risponde. Dica. No, aspetta, G per G meno 1 diviso 2. Che cos'è? Che cosa indichiamo? Il numero delle linee. Il numero dei nodi. Avete visto? Io ho detto i nodi. Con G intendiamo il numero dei nodi. Lei stava rispondendo alla domanda di cosa intendiamo con G. Sì. Ecco, in un grafo semplice, come facciamo a trovare la quantità massima di legami? Cioè G meno 1. Di diadi G per G meno 1 diviso 2, perché se togliamo il diviso 2, come ci ha detto anticipandoci una persona seduta qui durante una lezione, parliamo già dei grafi diretti, giusto? Ok, allora così io intendo trovare il numero complessivo di diadi che ci possono essere all'interno di una rete. Ok? Facciamo un esempio. Ci facciamo aiutare dal vostro collega in foto perché non c'era, io non ho spiegato questo. Bene, è arrivato una seconda ora. Allora, G minuscolo è il numero di nodi che si trovano qua dentro. Quanti 4. Sono? 4. Quanti sono i legami? Cioè, legami semplici, quindi le diadi, le combinazioni che si possono trovare qua dentro. Proviamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, cioè ciascuno di questi può essere collegato complessivamente con tutti gli altri, cioè con G meno 1. Se G è 4, ciascun nodo può essere collegato con 4 meno 1 altri nodi, d'accordo? Quindi, che cosa dobbiamo, fare? Dobbiamo prendere questa grandezza, G per G meno 1, però provare a determinarla. Se moltiplichiamo G per G meno 1, che cosa otteniamo? 4 per 3, 12, diviso però 2, 6. Questi sono 6, non sono 12, diviso 2, 6. Sono 6, sarebbero 12 se il grafo fosse un grafo diretto, vede? Ok? Sì. Ma nel caso del grafo 6, perché ne avremo 2 per ciascuna coppia di nodi. Quindi noi dobbiamo semplicemente sommare i legami, i pesi dei legami, e dividere questa sommatoria per G meno 1 diviso 2. In questo modo otteniamo otteniamo la densità, che sostanzialmente è la media dei pesi assegnati alle linee del grafo. D'accordo? È come se noi calcolassimo il peso medio di ciascuno di questi legami. D'accordo? La sommatoria VK sarebbe la K, sì. V sono i pesi, d'accordo? Quindi la densità si esprime come la somma di tutti i pesi che trovate all'interno di un grafo segnato. Facciamo un esempio di campo, di un grafo pesato, scusate. Prendiamo una triade, 5, 6 e 4, ok? VK quanto è uguale? 15. 5 più 6 più 4. 15 diviso G per G meno 1 diviso 2. Naturalmente possiamo riportare il 2 al numeratore, ecco perché qui c'è 2, d'accordo? Vedete? Ma noi intanto lo lasciamo qua, cioè ecco, è quello che non mi tornavano i conti, perché c'ho quello là. Per portare il 2 al numeratore basta sì. Toglierlo da qui e spostarlo al numeratore, d'accordo? Se avete una logica, lo lasciamo qua, adesso che stiamo facendo l'esempio, dobbiamo dividere questa grandezza che è 15 per G meno 1 diviso 2, cioè 3 per 3 meno 1, 3 per 2, 6 diviso 2, 3. E quindi la densità sarà pari a 15 terzi, cioè un quinto. 5. No, 5. 5. 5, ok. No, l'ho rovesciato. Allora, questo 5 che cos'è? È la media tra questi tre valori. Noi sommiamo i pesi e la dividiamo per il numero dei. Ma questa è il calcolo di media, eh? D'accordo? Questa è una media, una somma diviso che cosa? Il numero dei legami, che sarebbero in casa. Ma che cosa vuol due là? Un attimo. È quello che c'è. Ce l'ho messo per fare il 2 che poi. No, a me gli occhi, a me. Come si chiama quello che dice a me gli occhi? Venga qua. Venga qua, a me gli occhi. Sì, quello ci sono. 3 fratto 2, per togliere questo fratto 2, moltiplica tutto per 2, allora 2 somma dei pesi fratto è matematica. G per G per 2. Era quello che mi ero perso anch'io perché... Sì, ma però voi sì, dovete, sì, se sì. Voi seguite quello che sto facendo qua, allora questo è il K. Passaggio. diviso c per c meno 1, se per eliminare questo incastellamento devo togliere questo diviso, d'accordo? Sì. Per toglierlo devo moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per 2. Allora lo tolgo da qua e qui c'è questo il per 2, che è il 2 disorientante che ha trovato lei, che lo posso mettere prima. Sì, allora trovo bene il 2. D'accordo? 2 somma 15. Ah, ho capito. Fratto. G per G meno 1. No, G che sarebbe 3 per 2. Quindi sarebbe 30 diviso 6. D'accordo? 30 diviso 6. 30 diviso 6. Okay. 30 diviso 6. Questo che ha se l'avevo prima fare 6 più 4 più 5 diviso 2. Sì, facevate prima, siccome io sono perfido. E perfido è anche il manuale che lo spiega. Allora, se tu devi trovare la media dell'intensità dei legami, e sai che i legami 1 vale 5, 1 vale 6, 1 vale 4, fai la somma diviso 2. Okay. Guarda, io uso la formula. E adesso come lo risolvo il problema? 5 più 4. Diviso che cosa? In che senso diviso? Sempre diviso 2? No, i legami sono stati. È per questo che non è. Cioè, voglio dire, è la media non rispetto ai legami che ci sono, ma alle diadi potenzialmente attivabili. Quindi, se fosse questa situazione, dovrebbe fare 5 più 4 sempre con le diadi. Diviso 3. Sì. E quindi è per questa ragione che si applica la formula, d'accordo? No, è che lei, giustamente, io penso che dipenda anche dalla professione, cerca di trovare il modo più semplice per risolvere il problema. E questo è normale che succeda, però in questo caso, se io dicessi che equivale alla media, giustamente lei direbbe divido per 2. Il caso è il legame che ci deve essere, ma non è la media dei legami che ci sono, ma è rispetto alla, diciamo, alle possibili combinazioni. Quindi se il grafo fosse un grafo, il risultato in questo caso qua quale sarebbe? Un risultato matematico di questo? Sì. E dopo diviso 3, cioè di questo, il risultato di questo disegnato adesso, ma questo non chiesto la densità di questo coso qua, quello che ho disegnato adesso, sarebbe la somma dei pezzi, 9, cioè 5 più 4, diviso il numero di possibili combinazioni, che è 3. Cioè sarebbe 3. Ok? E non si fa G per G meno 1. Come non si fa? Sì, lo applichi, lo faccia. 5 più 4 è la sommatoria. Allora, 2. Poi, 2. 2 per 9. Ok, 18. 18 diviso 3. 3 per 3. 3 per 2 meno 1. 3 per 2, 6. 6. Quindi 18 diviso 6, che fa? 3. 3. Benissimo. Ok? D'accordo, no, io lo calcolo così perché giustamente la cosa che ho detto, ma è la media, sì, se noi possiamo calcolare la media, però è la media che deve tenere in considerazione questo legame che vede, non c'è. Quindi in questo caso la densità non consideriamo le diadi. No. Consideriamo tutte quelle potenzialmente attivate. Tutte le possibili diadi, cioè tutte le possibili combinazioni. G meno 1. Però lì non ce l'abbiamo disegnata. No, però è potenzialmente attivabile. Cioè non abbiamo un peso. Per noi come se fosse zero questo peso. Okay. Sì, la domanda era quante volte vi siete in questi e non si sono mai trovati? Vale zero, d'accordo? Cosa che non può succedere se noi li costringiamo a dare una valutazione da 1 a 10. No. D'accordo? In quel caso, uno è se tutti sono costretti a rispondere, per mal che vada risponderanno 1, d'accordo? Però c'è un aspetto, intanto sono, come dire, non è un dibattito del genere sulla densità del grafo pesato, è intrigante, non mi è mai capitato, però vi faccio una domanda. Vi ricordate una delle caratteristiche che abbiamo visto della densità relativa al range di variazione di questa grandezza? Dica? Non arriva a 1. Esatto, cioè è compresa tra 0 e 1. Qui abbiamo trovato che però per i grafi pesati la densità può ben superare il valore di 1, perché è una misura della media dei pesi. Quindi quale sarà il range di variabilità della densità? Quello, se c'è, teorico della scala utilizzata, esatto, delle frequenze che utilizziamo per pesare appunto per dare i pesi, per dare i pesi ai vari legami. Però lì sotto manca un pezzo. Sì, armonico si vede, armonico si vede, per qualche strano fenomeno maggiori di uno sarebbe di uno. Vediamo. Adesso forse lo vedete. Lo vedo più armonico, lo vedete anche voi? Veniamo, chiudiamo con il grafo multiplo. In questo tipo di grafo è messa la presenza di più di una linea. Grafo multiplo non diretto, costituito di un arco, grafo multiplo diretto, tra coppie di nodi. Un grafo multiplo è definito da un insieme di nodi n e da una quantità r di tipi diversi di linee, L1, L2, L3. Quindi che differenza c'è rispetto al grafo pesato e al grafo segnato? Come impostazione generale, che qui non avremo una terza caratteristica che si somma ai nodi e alle linee, ma avremo un insieme di nodi e di linee diverse tra di loro. Quindi avremo un insieme di nodi e una quantità R di tipi diversi di linee, che naturalmente potranno essere dirette, non dirette, potranno prevedere dei pesi, dei segni, eccetera. La terza successiva non serve, è sufficiente questo. Tutto chiaro? Veniamo all'ipergrafo. Per approcciare questo concetto, vi suggerisco di ricordare il concetto di cerchia sociale di Silver. E secondo voi, a chi mi rivolgerò adesso tra di voi che ha manifestato un amore particolare per Silver e per il ricordo, diciamo, ecco, lei! Ma sai, ieri ti ho fatto il libro di Paolo Le... non so, Jodorowsky l'ho tirato fuori perché mi sono ridetta Marx, che lo tratta molto bene, però in effetti Zimmer non lo tratta molto bene, cioè? È piccolino, tipo 2-3 paginette. Ah, dedica poco spazio, dedica poco spazio, magari sono pagine molto intense. È più bello Marx. Comunque, la sua domanda d'esame rischia sul serio di essere molto profonda su Simmel. Naturalmente scherzo. Secondo voi, vi ricordate che c'è, cioè, secondo voi, vi ricordate che cos'è la cerchia sociale? Vediamo se riesco a consigliare il vostro ricordo. Ricordate le cerchie sociali concentriche, l'intersezione tra cerchie sociali, soggetti che condividono tra di loro un fine, un oggetto d'attenzione, uno scopo, appartenenti a gruppi, sì, un'associazione. Per esempio un'associazione, eccetera. Allora, è il passaggio da cerchie concentriche tipico delle società tradizionali, invece individui liberi di costituire l'intersezione tra cerchie sociali molto diverse nelle società moderne, contemporanee, no? L'analisi della posizione dei soggetti. Vedo che questo argomento che io ricordo di aver affrontato anche con una certa, questo devo dire, è per me grossa autostima. Devo dire che oggi tra la faccenda c'eravamo, no? Beh, guardate, ci siete solo voi, abbiate pazienza. Io ho un certo grado di allucinazione che mi pigliano ogni giorno, però poi c'è la guarda, devo dire che oggi tra la faccenda della formula e il ricordo di Simmer, che è probabilmente l'unico autore classico a quale ho dedicato un approfondimento particolare, eccetera, è così approfondito, così capito. Cioè, lei se lo ricorda un po' Simmer, lo dica di sì, la prego, per pietà. Sì, grazie. Sì, grazie. Perfettamente. È persona cara, davvero, la ringrazio di cuore. Va bene, allora, adesso lasciamo perdere, sono sicuro che l'avete scritto da qualche parte, non state seguendo talmente tanti corsi che adesso io mi permetto, sto scherzando naturalmente. Meglio che lo studiate. Allora, l'ipergrafo è sostanzialmente un insieme di nodi in cui ciascun nodo. È vero, grazie. Eccolo qua, provato. Grazie. Allora, l'ipergrafo è costituito da un insieme di nodi in cui ciascun nodo appartiene ad almeno un sottoinsieme e nessun sottoinsieme è vuoto. Cioè, per disegnare un ipergrafo abbiamo bisogno di un insieme di nodi e di un insieme di sottoinsiemi. Lo come notazione lo esprimiamo con una H di hypergraph, nodi e sottoinsiemi. Vediamo subito un esempio, quello che trovate nel testo. H uguale a 7,4. 7,4, dove 7 è il numero dei nodi e 4 è il numero dei sottoinsiemi a cui questi nodi appartengono. Voi per esempio analizzate le affiliazioni di soggetti, delle appartenenze e disegnate un ipergrafo. Richiama molto i diagrammi, diagrammi di Venn. Sembra il sudoku. Il sudoku, ecco. Richiama molto il sudoku, effettivamente, lo userò come esempio. Se lei mi autorizza con copyright, oggi poi lo uso come esempio. Cioè l'incrocio tra nodi che appartengono, vedete, a sottoinsiemi diversi. Il primo sottoinsieme è formato da nodi n1 e n2, il secondo è n2 e n4, il terzo è n3 e n5 e n7, poi il quarto è n4 e n6 e n7. Naturalmente questo tipo di grafo può essere utile per visualizzare subito il concetto di loro le appartenenze o, se ricordate il concetto, le cerchie sociali a cui appartengono i soggetti. In sintesi, abbiamo visto grafi semplici dove i tipi di legami sono bidirezionali per coppie di nodi, il grafo diretto orientato da un nodo all'altro, il grafo segnato contrassegnato con segno positivo o negativo, il grafo pesato nel quale si misura l'intensità del legame, il grafo multiplo con legamenti plurimi tra coppie di nodi, cioè più legami contemporaneamente, e l'ipergrafo che prevede appunto il legame di appartenenza, di affiliazione, di condivisione di un ambiente, di un'associazione, di un luogo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? E così direi che con la teoria dei grafi abbiamo concluso. E invece ci trasferiamo ad un argomento che ci consente di concludere il più generale insieme delle modalità di espressione, di rappresentazione dei dati relazionali. Vi ricordate quali sono queste tre modalità? Io devo cominciare a farvi delle domande, però, eh? Questa è una cosa che abbiamo detto molto tempo fa, credo ieri. Non c'eravate? No, ve lo dico io, no? Non state a sfogliare, se no sprecate energie preziose, che abbiamo ancora due direzioni. La forma di matrice era il secondo, però. Allora, la matrice, giustamente, guardate, questo è tipico. Allora, giustamente, ha detto, la matrice non è il secondo, questo è il terzo. Se con questo concludiamo e sono tre, questo sarà il terzo. Quello che abbiamo visto poco fa è il secondo, la teoria dei grafi. Forma visuale, forma di grafo, forma visuale e grafo. Ok, quindi la forma visuale l'abbiamo vista ieri, fatta e conclusa. La teoria dei grafi l'abbiamo vista adesso, e adesso vediamo le matrici. L'utilizzo delle matrici per rappresentare. La prima matrice che vediamo, che richiama un po' l'ipergrafo, questo ve la propongo, qui siamo al capitolo 7 del libro di Chiesia, per questo ve la propongo poco prima di andare in in pausa. Ecco, le matrici sono un'alternativa alla descrizione grafica dei reticoli, sono indispensabili nel caso dei reticoli di grandi dimensioni. Ecco, una matrice in un software è molto simile a quella che abbiamo visto, anzi adesso che c'è questa possibilità vi faccio vedere anche una matrice già di quella che vedremo adesso, compilata. Le caratteristiche dei reticoli possono essere individuate anche rimuovendo al calcolo delle matrici, e le matrici sono la lingua parlata del software, non da tutti, prima il nostro collega mi faceva vedere un software che consente una rapida visualizzazione, il disegno rapido delle reti, d'accordo, poi produce delle matrici, ma diciamo tendenzialmente noi dobbiamo inserire i dati dentro dei fogli di calcolo e poi i programmi, in base alla loro complessità, alla loro capacità, ci daranno delle misure, la varianza, la deviazione standard, il calcolo delle reti standardizzate, eccetera, eccetera, eccetera. La prima matrice, che vi dicevo appunto, richiama un po' il concetto di per grafo, la matrice di affiliazione. Allora, le matrici che vedremo sono 5 in tutto, le 5 matrici: la matrice di affiliazione, la matrice di incidenza, la matrice di adiacenza, la matrice di raggiungibilità e la matrice delle distanze. La prima matrice è la matrice di affiliazione, è una matrice del tipo N per M. Quell'N per M ci fa subito capire che sulle righe e sulle colonne della matrice ci sono oggetti diversi, cose diverse, se no troveremo la stessa lettera, ovviamente. Le N righe rappresentano i soggetti che formano il reticolo e le M colonne sono invece gli eventi a cui questi soggetti partecipano. Forse l'avevamo già fatta, forse. L'avevamo già vista. L'abbiamo già vista quando abbiamo parlato. Per esempio. No, ma l'abbiamo vista anche in una slide quando abbiamo parlato di tecniche di raccolta e organizzazione dei dati. Sì. Esatto. Sì. Avevamo usato il fatto della partecipazione. Io vi avevo detto, poi riprenderemo questa matrice e vedremo anche altre. Anche una matrice l'abbiamo già un po' anticipata, la matrice di adiacenza, sì, quando abbiamo parlato dei legami tra i nodi, quindi la presenza e assenza del legame. Ok? Questa matrice incrocia i nodi e sulle colonne gli eventi a cui i soggetti partecipano. Attenzione al significato dei marginali di righe e di colonne. Quindi cosa scopriamo? Che N1 partecipa all'evento E1, che può essere un'associazione, una riunione, un gruppo di lavoro, eccetera. Il marginale di riga che corrisponde all'N1 è la somma dei valori che troviamo all'interno di questa riga, cioè è il numero di eventi a cui N1 partecipa, d'accordo? La somma invece dei valori che troviamo in fondo a questa colonna è la somma dei valori che stanno qua dentro, cioè ci dirà che cosa questo 2. Quante persone hanno partecipato all'evento? Bravissimo. No. Sì. Esatto, ragione. Quante persone? Sì. Ah, no, cioè, quanti soggetti sono? Sì, va bene, in questo caso potrebbero anche essere dei soggetti collettivi, naturalmente, ok? Cioè dei nodi che sono delle entità collettive. Questa matrice, come abbiamo detto, è una matrice che è utile quando abbiamo a che fare adiacenza, perché abbiamo già fatto vedere qualcosa rispetto a questo. Settembre, no, un carro. Esatto, la cosa l'avevo fatto vedere anche, anche la, la carta dell'osso. Sì, sì. Ecco, allora qui dentro ci sono dei nodi e ci sono dei canali. Allora una matrice di affiliazione che abbiamo costruito è una matrice che riguarda la, diciamo, l'appartenenza di un nodo ad un canale. Se un sito, una città è affiliata ad un canale, vuol dire che lo può usare un canale gravitabile, che lo può usare per commerciare. Non abbiamo visto questo esempio, vero? Sì, sì, sì. Ah, ok, basta, allora non ve lo faccio vedere più. No, io non lo ricordo. Lei forse non c'era. No, non c'era. Ok, allora vi faccio vedere questo. Ve l'avevo detto che era gennaio. Questa è una matrice di affiliazione. Questa è fatta con Excel. Questi sono i nodi, cioè le città, i siti, e questi sono i canali. Quindi se io avessi dei immaginari di linea calcolati qua, saprei quanti canali sono raggiungibili, erano raggiungibili da ciascuno di questi siti. Se avessi i canali sono complessivamente, vedete, 3, 6, 9, 10, se avessi immaginato di colonna, se avessi la capacità di colonna, saprei quanti sono i siti che possono accedere a ciascun canale, che lo possono usare per commerciare, ok? E a partire da questa matrice si è potuta ricostruire, e questo è adesso il ricordo che vi ho fatto vedere, la rete delle possibili, dei possibili collegamenti fluviali tra tutti i nodi, tutti i siti, quindi le città di questa oasi. Vedete che emergono tre aree complessivamente diverse. Va bene, allora, quindi la matrice di affiliazione serve, è necessaria per noi, perché grazie alla matrice di affiliazione possiamo avere delle informazioni sui legami. Qual è il limite della matrice delle affiliazioni rispetto alle quantità dei legami che si possono indagare? Che è solo un legame andavo ad analizzare. Sì, magari si può anche prevedere di pesare, di pesarlo se ci sono più collegamenti, se due soggetti condividono più di un evento, si può prevedere di pesare la quantità di eventi che condividono, d'accordo? Però non c'è la direzione. Quella non la possiamo, non la possiamo. Noi facciamo una statistica, adesso mi dica se è la stessa cosa. Facciamo una statistica tra le varie associazioni e gli eventi a cui partecipano. Quindi io sulla parte, diciamo, a destra, in fondo, ho in base alla tipologia di evento, le associazioni che hanno partecipato. Sì. E poi sottostante ho quante associazioni per associazione a che eventi ha partecipato. Ma lei ce l'ha questo dato? Cioè, se lei si porta questo dato qua nel rispetto della privacy, quindi magari modifichi i nomi delle associazioni se è un dato sensibile, noi nel giro di qualche secondo ricostruiamo il network che si può desumere da quel file lì. L'avete mai fatto voi questo? L'avete mai fatto? Avete mai ricostruito il network? Io ricordo che lei si chiama Davide perché era collocato all'interno di un network. Stasera a girare al contrario, anche soltanto un pezzetto. Se vuoi faccio io, quanti dati sono? Puoi evitare di mettere i numeri, metta soltanto uno, no? Se c'è uno. Se c'è 38 metta uno, se c'è faccio metta soltanto uno, non posso una, un numero. Basta che non ha più di 20, basta che non ha più di 20, 30 voci. Se lei ci vuole la porta in quel modo, noi la... Quanti? Il prossimo è la porta. Sì, se vuole. Se no, è per domani. No, per domani no, che sabato, non c'è lezione per domani. Io qui, su questa parte qua, metto l'associazione. Questa parte qua potrebbe fermarsi. Là ci sono degli eventi, e poi si può immaginare che se due associazioni hanno partecipato all'evento allagamenti l'abbiano fatto assieme. Sì, sì, esatto. Ok, benissimo. E non deve stare a copiare. Io so, per esempio, questa associazione, questa mi fanno gli allagamenti, questa mi fanno gli okay. Dispersi. Allora lei la deve girare e invece di mettere il numero, mette uno. E dove non c'è niente non metta nulla, poi metto io un automatico di ok, signori, ci vogliamo fermare 5 minuti. Sì. Ha sentito che andiamo a fare l'esercitazione? Siamo stati incorporati nel terzo storno. Dovete fare attenzione. Ma anche domenica se che esercitazione dovete fare? Dama di picche. Possiamo dire solo quello. Dama di picche. È riservata. Dama una cosa riservata. Si chiama dama di picche. Dama di picche. È una simulazione di un incidente aereo. Ah, sì. Però sa che rimarrai senza studenti. Però, ma i docenti non possono venire. No, non lo so, chieda. C'è cioè, una lista, se vuoi raggiungere la lista. Ma guardi, a me si sono illuminati gli occhi. Ecco. Nel senso che se non, non è preoccupante. Perché c'è credibilità. Perché?